Perché la stampa che è stata inventata in Cina prima che da noi non ha avuto in Cina le stesse conseguenze che ha avuto da noi? Perché la stampa arriva in Cina su di un sistema di scrittura che non è addirittura per nulla fonetico, che è totalmente ideografico. I Quindi non c'è segni, rapporto con la parola. non c'è il rapporto con la parola nella scrittura, c'è il rapporto con il Con concetto, con l'immagine. l'immagine, con l'idea, con l'astrazione. In una cultura del genere la stampa non può avere gli stessi effetti che ha da noi. La stampa in Cina non ha creato, è stata certamente usata, ma non ha creato non ha messo in moto quell'insieme di cose che rapidissimamente da noi hanno creato un sistema di riproduzione automatica, quello che il signor Flusser chiama un apparato, cioè un dispositivo tecnico per la generazione automatica di messaggi. Certo.